Hai la pelle così bianca, così tanto bianca, che poi ti si macchia anche se guardi nel buio, anche se guardi i miei occhi. Ballami la tecno, tecno fino all'alba, finché basta, finché il sonno non ci devasta, finché non baci la sabbia. Così bianca, così tanto bianca, che poi ti si macchia anche se guardi nel buio, anche se guardi i miei occhi. Ballami la tecno, tecno fino all'alba, finché basta, finché il sonno non ci devasta. Così tanto bianca.